Ciao a tutti carissimi ascoltatori di Radio Big World e benvenuti in una nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Sono sempre io, Elisa Elena Carollo, la vostra aspirante attrice di fiducia, quella che ogni settimana cerca di proporvi un monologo per farvi capire che in realtà il teatro non è una cosa noiosa, anzi può avere un legame con la vostra vita quotidiana. Questa settimana, dato che è il 14 febbraio, parliamo di San Valentino. Avete visto tutti i cuori che ci sono in giro nelle vetrine, tutte le pubblicità di cioccolatini, gioielli, cose? Non lo so, non ci sono stata particolarmente attenta perché in realtà io odio San Valentino. E sì, il motivo è in gran parte che per la maggior parte della mia vita l'ho passato da single disperata. Ok, quest'anno no, però comunque mi è rimasta questa antipatia verso la ricorrenza che ci fa sentire tutti obbligati a festeggiare, a dover fare gesti romantici, ma non come li vogliamo noi, come si aspetta la società. E che soprattutto vede l'amore come soltanto l'amore romantico. Invece ci sono così tante forme di amore. C'è quello per la famiglia, per gli amici e soprattutto non dimentichiamolo l'amore per noi stessi. L'amore può avere così tante forme diverse che mi sembra abbastanza stupido ridurlo soltanto ad un ammasso di cuoricini. Ma io sono una persona molto cinica, ormai mi conoscete, quindi credo che vi sareste aspettati qualcosa del genere da me. Ho comunque deciso di portarvi una poesia d'amore che esprime il concetto di amore che può andar bene soprattutto per il proprio partner innamorato, ma in realtà va bene anche per qualsiasi altra persona che amiamo, perché la caratteristica principale dell'amore è che vogliamo dare sempre il meglio alla persona che amiamo. Vogliamo offrire la parte migliore di noi, vorremmo sempre farla o farlo contento, ci preoccupiamo se sta male. Alla fine non succede solo quando siamo fidanzati. Quindi ho scelto questa poesia di Stefano Benni, che sì, è un autore che mi piace parecchio. Diciamo che ha dei testi che mi lasciano abbastanza perplessa e dei testi che adoro. E quindi secondo me è questo il suo fascino. Riesce sempre a sorprendermi e questa poesia credo sorprenderà anche voi. Io ti amo e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo e se non ti basta vuoterò il mare e tutte le perle verrò a portare davanti a te e il mare non piangerà di questo sgarbo che onde a mille e sirene non hanno l'incanto di un solo tuo sguardo. Io ti amo e se non ti basta solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo e se non ti basta anche le nuvole catturerò e te le porterò domate e su di te piover dovranno quando d'estate per il caldo non dormi. E se non ti basta perché il tempo si fermi fermerò i pianeti in volo e se non ti basta, beh, vaffanculo. Questa non ve l'aspettavate, vero? E invece, secondo me, è proprio così che dovrebbe andare l'amore. Nel senso, capitemi, quando amiamo una persona, vorremmo veramente darle qualsiasi cosa ci sia di bello, lodare tutte le sue qualità, però, oltre un certo limite, non va bene. Non va bene quando è una sola persona ad essere generosa, e l'altro non ricambia, non fa niente per dimostrare di apprezzare questo amore e per ricambiare. Se noi facciamo, regaliamo, ci impegniamo sempre a dare cose belle e l'altro non apprezza questo sforzo, se non gli basta ancora, e che cazzo, cosa vuoi di più? Insomma, non posso mica fare tutto io, no? Se oltre un certo limite non ti basta quello che faccio, allora te ne puoi pure andare a fanculo, scusami, perché l'amore non viene mica da una parte sola. È una cosa che deve essere reciproca tra le due persone. E parlo soprattutto di una relazione sentimentale. Ok, io non sono così esperta di relazioni, diciamo che sto cercando di imparare, però ci arrivo che una relazione sana non è di questo tipo, non è di una persona che fa di tutto e l'altra che si fa sempre pregare. Se ci si trova in questa situazione, bisognerebbe farsi delle domande e avere l'amor proprio di dire vaffanculo. Meglio soli che male accompagnati. Ok, questo è un grandissimo luogo comune, però trovo che stia vero. Invece di essere fidanzati con una persona che non è giusta per niente per noi, è meglio stare da soli. Almeno noi stessi ci possiamo amare, ci possiamo rispettare come meritiamo, invece di stare con una persona che non ci tratta come meriteremmo. Quindi, prima di comprare i cioccolatini per San Valentino, pensateci. Anche se spero che non sia il vostro caso. Spero che il vostro caso sia quello in cui vorreste togliere le stelle dal cielo per regalarle alla persona che amate e che lui o lei farebbe lo stesso. E poi San Valentino è un dramma per i single e io lo so bene. Soprattutto se siete dei single per niente contenti della vostra situazione come lo ero io e lo sono stata per un sacco di tempo. Cosa volete farci? Bisogna un po' ignorare questa ricorrenza, tutti i cuoricini, i bacini, i fiorellini. E avere un po' di speranza, anche se so che non è facile. Però vi dirò quello che dico alle persone a proposito dell'università. Se mi sono laureata io, può farlo chiunque. E lo stesso per quanto riguarda la situazione amorosa. Se la mia è migliorata, anche se ci è voluto un bel po' di tempo, allora può sicuramente migliorare anche la vostra. Fidatevi, non potete essere un caso più disperato del mio. Benissimo, dopo questa rubrica della posta del cuore improvvisata, direi che per oggi possiamo anche chiudere la puntata. E dire che la settimana prossima parleremo di qualcosa di un po' meno sdolcinato, perché oggi ho veramente dato il meglio di me per sopportare tutto questo zucchero. Se questa puntata vi è piaciuta e vorrete continuare a seguirmi, io vi aspetterò sempre qui, con molto piacere, su Radio Big World la settimana prossima. Ciao a tutti!